voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. È per... Mariangela, si è fermato il ciclo. E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare la tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte... Le mestruazioni! Le si sono fermate! Chi ha parlato? Come? Le mestruazioni? Ma, scusami, ma anche Mariangela ha proprio tutto come... Ma Ugo, è una bambina come tutte le altre! Insomma, come quasi... Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico, ma le 8:30? Ma io ho fame, te l'ho già detto! Ugo, è incinta! Allora, me l'hai detto che...

Infine, ed è una prova assai più convincente, nel 1822 il grande Goethe annota sul suo diario uno strano fenomeno celeste. Di ritorno dalla festa dell'ansia di Lipsia, stavo attraversando un campo, quando a caso levai lo sguardo e vidi varie palle di fuoco apparire d'un tratto nel cielo, a meridione. Esse scesero a gran velocità e dieronsi a inseguirmi. Io gridai che ero un genio, e quindi non potevo mica correre tanto veloce, ma vane furono le mie parole. Montai in collera e presi a inveire fieramente. Alle mie imprecazioni, atterrite, volarono via. Riferii questo episodio a Beethoven, senza rendermi conto che era già sordo, e lui mi sorrise, annuì e disse: «Giusto». In linea di massima, un'accurata indagine sul posto appura per lo più che gli oggetti volanti non identificati sono invece ordinari fenomeni, quali meteoriti, satelliti, palloni sonda e, una volta, perfino un certo Lewis Mandelbaum, saltato in aria con i suoi fuochi d'artificio clandestini. Un tipico episodio esplicabile è quello riferito da Sir Chester Rusbottom il 5 giugno 1961 nello Shropshire. Ero in macchina verso le ore 2 del mattino quando vidi un oggetto a forma di sigaro che sembrava tallonarmi. Dovunque svoltassi mi veniva sempre dietro, compiendo sterzate secche. Era d'un rosso acceso e per quanto accelerassi e zigzagassi non riuscivo a seminarlo. Mi misi in allarme e cominciai a sudare. Cacciai un urlo di terrore e a quanto pare perdetti i sensi. Mi svegliai all'ospedale, miracolosamente illeso. Dopo aver indagato, gli esperti appurarono che l'oggetto a forma di sigaro era il naso di Sir Chester. È ovvio che non riuscisse a seminarlo, poiché gli era attaccato alla faccia. Questo era ancora La minaccia degli UFO, da Effetti collaterali di Woody Allen. Thank you. Sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? Non lasciami fare da solo, eh? No, papà! Aiuto! Oh, no, no, io ti ammazzo, sai! Down with her. Ogni tanto mi capita di ritirare fuori questo discorso dell'importanza della singola canzone rispetto ad un album, dell'emozione che una canzone può regalarti, emozione che un intero album difficilmente riesce a darti allo stesso modo. Ecco, questa canzone finalmente l'hanno scritta gli Elk City, e l'avete notato perché è presente tutte le settimane da quando è uscita all'interno delle playlist di Eclettica. Un gruppo, quello degli Elk City, che da tempo tenevamo sott'occhio, passavano con le loro prove discografiche di uscita in uscita all'interno di Eclettica, ma mai con questa frequenza, indice che è sicuramente la canzone dal mio soggettivissimo punto di vista. Cherries in the Snow per gli statunitensi Elk City, che lascia lo spazio ad un'altra bella canzone in un album in cui di belle canzoni ce n'è più di una. Sto parlando dell'ultimo degli inglesi, The Cinematic Orchestra. Questa è Breathe, che chiude anche Eclettica per quanto riguarda quest'oggi. And swallows me. And comfort me. to me. You breathe in, breathe into me. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 44, volume numero 3. Indice: Patrick Clendenin, Minus Story, The Real Tuesday World, Kevin Drew, The Thieves of Kailua, The Twilight Said, Jens Lehmann, Amina, Elk City, The Cinematic Orchestra. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.